vento che passa fra gli alberi del mio giardino fa un suono strano. Adoro sentire la voce degli alberi, mi parlano, mi ricordano le stelle, il fruscio del cielo quando la notte guardo quelle luci lassù, e la musica che mi accompagna, la stessa nota prolungata e dolcissima che mi dà la buonanotte e che io risento al risveglio, al mattino. Ora basta però, io mi incanto di mille pensieri e dimentico le cose importanti. Me lo ripeteva sempre mio padre. Io ho provato in tutti i modi a scappare dai suoi ragionamenti, ma alla fine la logica, la sua logica, mi inseguiva ovunque. Aveva ragione lui. Lo studio, prima di tutto. Se oggi io sono qui, è grazie a lui, a mio padre, grazie allo studio, alla sua passione. Se oggi io sono qui, mi viene da ridere, se non ci fosse da disperarsi. Ma dove sono io oggi? Dove siamo noi tutti oggi? Basta, basta, mi devo alzare. Basta andare in giro con le parole. Io devo vedere i miei allievi, devo andare da loro. È troppi giorni che sono in casa, devo uscire, voglio il sole in faccia, indossare la mia veste più bella per scacciare i cattivi pensieri. Loro vogliono tenerci in casa, loro vogliono il campo libero, niente testimoni. Strano Dio, che ha paura delle parole, che odia i libri. Strano Dio davvero. Ma è il Dio che loro vogliono dipingere, quello che fa paura, la proiezione delle loro paure. Non è Dio, perché Dio, gli dèi, li puoi chiamare in mille modi, ma se sono davvero lassù dietro le stelle e sono loro che regolano tutto, ma perché? Perché dovrebbero avere paura? E di che cosa? Di noi. La paura e la violenza appartengono all'uomo, a Dio, se c'è. Appartiene l'amore. Ad Albino, prefetto del Pretorio. Nessuno violi la propria purezza con riti sacrificali. Nessuno immoli vittime innocenti. Nessuno si avvicini ai santuari, entri nei templi e volga lo sguardo alle statue scolpite da mano mortale, perché non si renda meritevole di sanzioni divine ed umane. Se qualcuno, dedito a un rito profano, entra nel tempio con l'intenzione di pregare, venga questi costretto a pagare immediatamente la sanzione con pubblica attestazione. Andiamo! Andiamo! Non bisogna avere paura! Sono loro che non hanno capito, che continuano a non capire. Oh, sbrigatevi con quelle casse. Sono libri, tanti quanti loro non ne hanno mai visti. Un esercito di libri. Li riportiamo a casa. I nostri soldati saranno le nostre armi. Vedrete le loro facce quando la nostra casa sarà di nuovo piena di libri. Hanno dato ordine di bruciarli, i libri della biblioteca di Alessandria, ma non riusciranno a trovarli se li avremmo messi in salvo. Coraggio, su, le stelle fra un po' saliranno a darci una mano, sono nostre amiche le stelle. Coraggio, forza, tutti assieme, voi sul ponte della nave e voi qui a caricare i cavalli e uno di vedetta sulla collina a vedere che non arrivi nessuno. Sbrighiamoci, dobbiamo svuotare il carico prima che faccia giorno. Coloro che hanno tradito la santa fede e hanno profanato il santo battesimo siano banditi dalla comune società, siano esentati dalla testimonianza in tribunale, non abbiano parte nei testamenti, non ereditino nulla e da nessuno siano indicati come eredi. Per coloro i quali contaminarono la fede, non sia cancellata la vergogna dei costumi con la penitenza, la quale solamente per altri crimini occorre perdonare. Ancora 2 minuti. Sono stanca. Sono troppe notti che dormo un sonno senza riposo. Io tremo ad ogni rumore e vedo sempre peggio. La vecchiaia deve essere così. Io non so più neppure se sono vecchia. Il calendario sembra impazzito e la meridiana segna un'ombra impossibile da decifrare. Io piangerei se sapessi farlo. Ho sognato mio padre. Lo sogno sempre più spesso. Noi stavamo ore e ore chini sugli stessi fogli di carta. Parlavamo sottovoce. Quante parole che io da bambina non capivo. Io provavo a trattenerle. Tendevo i muscoli fino ad avere le braccia e le gambe indolenzite. Io mi allungavo. Nello sforzo diventavo più alta, altissima, e poi crollavo a terra esausta. Quando riaprivo gli occhi, mio padre era lì, a fissarmi, a sorridermi. Ho sognato che distruggevano a bastonate i nostri strumenti, il mio astrolabio, il mio idroscopio, pezzo per pezzo, bastoni a spaccar tutto. Ho sognato che bruciavano i nostri libri e io lo so che accadrà. Io non sono capace di predire il futuro, io sono solo capace di mettere in fila la logica. È per questo che devo andare. I miei allievi mi aspettano. A nessuno si è accordata facoltà di compiere i riti sacrificali. Nessuno si aggiri attorno ai templi. Nessuno volga lo sguardo verso i santuari. Si identifichino in particolar modo quegli ingressi profani che rimangono chiusi in ostacolo alla nostra legge. Così che se qualcosa incita chi che sia ad infrangere tali divieti riguardanti gli dèi e le cose sacre, riconosca il trasgressore di doversi spogliare di alcuna indulgenza. Dove siete? Dove siete? Ah, eccovi! Io temevo di avervi perso. Sbrigatevi! Le stelle sono già alte in cielo e c'è luce. Noi vediamo perché sappiamo seguire le stelle. Loro non vedono nulla. Loro sono piccoli, dentro i loro piccoli palazzi, le loro piccole case che sembrano capanne scosse dal vento della loro stessa paura. Se c'è un Dio, non è sopra di loro. Se c'è un Dio, è sopra noi tutti. Guardate che i libri siano tutti giù sulla banchina del porto. Non lasciate fra le onde neppure un piccolo, piccolissimo foglio di carta. Se ci fosse il loro Dio, avrebbe le mani scure d'inchiostro e gli occhi rossi dalla stanchezza di leggere. Lui avrebbe letto tutti i libri del mondo. Il loro Dio, se ci fosse, avrebbe posto per tutti i libri di Alessandria. Se il loro Dio ci fosse, ve lo prometto, non li bruceranno questi libri, non saranno cacciati da Alessandria, ricordatevelo! Questa città morirà quando l'ultimo libro sarà perduto. Questa città resisterà a tutto, anche al loro Dio, se riusciremo a salvare anche una sola pagina del nostro passato, del nostro sapere. Questa città non morirà, ve lo giuro, ve lo prometto. Nessuno, di qualunque genere, ordine, classe o posizione sociale, o ruolo onorifico, sia di nascita nobile, sia di condizione umile, in alcun luogo per quanto lontano, in nessuna città, scolpisca simulacri, o offra alcuna vittima innocente agli dèi, o bruci segretamente un sacrificio ai dèi, ai geni, ai penati, accenda fuochi, offra incensi o apponga corone a questi idoli. poiché se si ascolterà che qualcuno avrà immolato una vittima sacrificale o avrà consultato viscere, sia accusato di reato di lesa maestà e accolga la sentenza competente. La strada è lunga. Io leggo camminando, come se il libro non fosse un impedimento, ma una specie di bussola. Conto le pagine e so esattamente dove sono. 3 pagine ed ecco che ho alle mie spalle il mio giardino. 10 pagine ed ecco là la casa della mia vecchia nutrice. Quante mattine ho passato con lei. Che sia morta prima di vedere tutto questo per me è come una consolazione, sì. E per me è persino una gioia. Mia cara bambina, mia dolce Ipazia, diceva sempre, tuo padre è un uomo buono, è un uomo pieno d'ingegno, ma è pur sempre un uomo. E non lo sa che cosa serve ad una bambina, cosa serve ad una donna. Nel tuo mondo, Ipazia, tieni sempre un posto per il tuo cuore. Noi donne non siamo deboli, siamo solo diverse. E rideva dicendomi questo. Anche fra le stelle ci sono stelle diverse. Sì, stelle donna. Io l'ho imparato crescendo. Ho visto stelle dalla luce più tenue, dal corpo più sottile. Stelle che sembravano sempre sul punto di spegnersi, sempre sul punto di essere spinte giù dal cielo, dalle altre stelle più grandi. Invece, passano gli anni. Soffia il vento dello spazio a spazzar via la loro luce, ma loro sono ancora lì. E sembrano sempre più belle, anno dopo anno. E saranno lì, per sempre. Come noi. Come voi. Come me. Io leggo. Leggo e cammino. Leggo i loro testi per capire quello che scrivono, ma io non capisco. Ma cosa? Cosa è successo? Che cosa? Loro ci sputano in faccia i loro insulti, hanno creato un muro d'odio e oggi lo chiamano chiesa. Ma domani, com'è che lo chiameranno? Hanno immaginato un dio guerriero e hanno deciso che era il loro dio, buono e giusto. Ed è questo che mi rattrista di più, l'inganno. Sì, l'inganno al pensiero, alle menti, la fede e la speranza sporcate dalla paura, paralizzate dal terrore. Dio non è solo vostro. Sì, mi verrebbe da urlarlo. Dio non è così. Io vorrei gridarlo, ma le urla non mi appartengono. Io non amo il ferro sbattuto contro il ferro. Io non amo il rumore della battaglia. Io vorrei soltanto fermarmi e parlare con loro. Sì, spiegarmi, aprire le nostre menti tutti insieme. Io l'ho fatto 1000 volte con i miei allievi, tantissime volte. Prima gli occhi sgranati di chi non capisce, poi la scintilla del dubbio e infine il sorriso felice di chi ha fatto un passo in avanti. Leggo e mi pare di vederli. Li vedo sui muri bianchi dove loro scrivono insulti. Li vedo dietro le finestre che si chiudono mentre io passo. Delle persone che mi urtano apposta, sempre più violente. Io li vedo. Appena alzo la testa dai miei fogli e io non lo so più. Non so più di chi debbo avere paura. Sento che c'è sempre meno gente che mi segue. Ma cos'è successo? Cosa? Oh, una volta persino chi governava la città veniva a chiedere a me, sì, a me, Ipazia, consiglio. Il mio giudizio aveva un peso nelle loro decisioni. Adesso intorno a me non c'è più nessuno. I miei allievi inventano bugie e dicono che oggi uno è malato, un altro forse verrà domani. Mi dicono, ma Ipazia, non ti preoccupare, passerà, non ti potranno perseguitare, ma non potranno mica farci del male. Loro lo sanno che cos'è il dolore. Ai tempi di Roma sono stati costretti a pregare nelle catacombe. Non faranno a noi questo. Dicono così i miei allievi. Ma loro sono giovani e illusi. Loro non sanno come può essere pericoloso un dio partorito dal rancore. No, no, un'ombra. Un'ombra mi passa vicino, alzo la testa di scatto dal mio libro e mi giro intorno a guardare, no? Io devo solo arrivare alla mia scuola, ritrovare i miei allievi, sì, sì, pensare. Pensare. Ma io non riesco più neppure a pensare. Li vedo. Ora li vedo. Sento le voci e io lo so che questo non è un sogno. Io affretto il passo più veloce, pazia più veloce. No, no, pazia, no, devi fermarti. Io non voglio dar loro nemmeno questa soddisfazione. Mi fermo con calma a sfogliare le pagine del mio libro. Li sento però. Dicono che sono sfrontata, che sono una pazza. E questa è la strada che prenderanno, la pazzia, lo so già. La luce non sarà ancora cambiata sui muri delle case, le ombre non saranno ancora troppo lunghe, che io sarò la pazza del villaggio. L'eretica, parola nuova, l'hanno inventata loro. Libri con lunghi, interminabili elenchi di eretici. Ecco cosa ci riserva il futuro. È sufficiente infatti per l'accusa di crimine il volere contrastare la stessa legge, perseguire le azioni illecite, manifestare le cose occulte, tentare di fare le cose interdette, cercare una salvezza diversa da quella cristiana, promettere una speranza diversa. È una notte tranquilla questa. E c'è un cielo pieno di stelle. In una notte così, mio padre, quando io ero bambina, mi portò sul tetto della nostra casa a guardarli. Lui non smetteva mai di cercare, di inseguire l'ordine supremo che gli sfuggiva. Se loro sapessero che il primo a parlarmi di Dio è stato lui, sì. Sì, è stato proprio mio padre, ma il suo era un Dio che univa, non era un Dio che divideva. Mio padre mi diceva che i pianeti non girano a caso inseguendo l'istinto come gli animali della foresta. E per farmelo capire usava spesso la metafora degli animali. Lui sapeva che a me da bambina piacevano le favole. E così mi parlava delle stelle e delle piante, chiamandole con i nomi degli animali del nostro giardino. Così i pianeti non erano più animali impazziti, ma obbedivano tutti ad un ordine superiore. Quale fosse quest'ordine non lo sapevamo allora. E io dubito di saperlo ora. Ma quella fu per me una cosa bellissima, sì. Io non riesco a spiegarla. Ricordo come una sensazione di pace. Io me ne stavo spesso da bambina, da sola, rannicchiata sul tetto della nostra casa, a fissare le stelle. Cercare era quello che anch'io volevo fare. Cercare, guardare, capire. Basta parlare. Andiamo su. La città dorme ancora. Ah, non svegliamo quelli che non devono essere svegliati. Non è una notte da prendere alla leggera, amici. Questa notte è una notte che è morte. Se qualcuno ha venerato opere mortali e simulacri mondani con incenso e, a ridicolo esempio, teme anche coloro che essi rappresentano, o eretto altari con zolle scavate alle vane immagini, si è accusato di ingiuria alla piena religione cristiana e reo di violata religione, sia multato nelle cose di casa e nel possesso, essendosi reso servo della superstizione pagana. Tutti i luoghi poi nei quali siano stati offerti sacrifici di incenso siano requisiti. I pochi amici che incontro fanno quasi finta di non vedermi. Se mi parlano mi dicono: ma è pazza, ma stai in casa, ti verremo noi a trovare. Non li vedi? Lo sai, pazia, che ti odiano. certo che lo so. È certo che li vedo. È proprio per questo che io esco. Voglio vederli in faccia. Voglio guardarli negli occhi. Voglio inseguirli io. Sono io la cacciatrice. Io non nasco per finire su un altare agnello di un sacrificio che io non riconosco. E poi... E poi mi torna di nuovo in mente il mio incubo. Un terribile incubo. Sono molte notti che mi perseguita. Ma sapete che cos'è una cella di 1 metro per 2 scavata dietro il muro di una chiesa? Lo sapete che cos'è stare sempre al buio in una gabbia di pietra che ti si spalma addosso? Questo, questo è il mio incubo. Io sono chiusa, chiusa nella mia paura, prigioniera peggio che sepolta, e non riesco a muovermi. Cado in ginocchio, ma io non sento dolore. Un filo di sangue mi risveglia per un attimo, ma è solo un sogno, sì, è soltanto un maledetto sogno, mi dico. E poi appare mio padre. I miei allievi sono ombre e non sono qui con me ad aiutarmi. Io vedo solo i loro uomini dappertutto, ombre dietro le finestre, monaci, uomini del vescovo che urlano: Dio è con noi, Dio è con noi, Dio è con noi. No, no, io ho paura, maledettamente paura, soltanto paura, sì. Il cuore mi batte, mi batte, mi batte, mi batte forte. Sento il ferro nella carne. Io devo svegliarmi, devo svegliarmi da questo sogno, da questo terribile incubo. Calmati, calmati, calmati, ti prego, Ipazia, calmati. Continuo a dire di calmarmi, ma non riesco. Io sono muta. E poi mi sveglio. No, io devo andare verso la mia scuola, sì. Un'ombra scivola alle mie spalle e affretta il passo sull'altro lato della strada. Ah, un carro me la porta via dagli occhi. Che stupida! Sono soltanto una stupida, certo. Io l'avrò soltanto immaginato. Mi passo una mano sugli occhi. Riapro il libro che avevo chiuso. Sì. Tra poco sarò a casa. Nella mia vera casa. La mia scuola. E prima ancora la scuola di mio padre. Prima ancora la scuola dei maestri di mio padre. Sì, sì, tra poco. Sarò in salvo. Sarò a casa mia. Io, Cirillo, vescovo di Alessandria, ti imploro, mio imperatore, dammi la terra purificata dagli eretici e io ti ricambierò con il cielo. Annienta con me gli eretici e io annienterò con te i persiani. Aspettate! Aspettate, no! Io non sono più una ragazzina. Non sono come voi. Io non posso passare la notte in sella a un cavallo bianco come se avessi 20 anni. La fatica mi pesa addosso. Ma non sono sempre stata così, sapete? No. La vostra maestra è stata giovane. Sì. Sono stata giovane. E dicono pure bella. Bellissima. Mi ha scritto qualcuno. Oh. Io non ci ho mai creduto fino in fondo. La vanità è una colpa solo per quelli che sono arrivati adesso. Solo un Dio senza occhi può metterla fra i peccati. La vanità è solo un dolce pensiero che serve a noi donne per passare le ore più buie. Anche la vostra maestra è stata vanitosa. Sì, e me ne vanto. Ah, è una delle colpe che ora mi sputano addosso. E se è una colpa? Sì, allora sono colpevole. Sentite quello che dicono. Mi rimproverano di girare per strada con voi senza vergogna. E di cosa dovrei vergognarmi? Dovrei vergognarmi di essere una donna? Andate, io mi fermo qui a riposare un poco. Ma sì, la strada la so. Dove stiamo andando? È casa mia. Lì troveremo tutti un po' di pace. Io, voi e i nostri libri. Andate su, sì. Io socchiudo solo gli occhi. Per un momento. Per un attimo. Con gli occhi chiusi. Vedo bene quello che i miei allievi non possono neppure intuire. Non ci saranno feste per noi che abbiamo salvato i libri di Alessandria. Non passeremo sotto l'arco di trionfo. Il nostro esercito non riprenderà più le armi. Abbiamo teste chine, facce disperate, illuminate dal rogo della carta, prigionieri di corde e catene. Non ci saranno danze per noi. Non apparecchieranno tavole in festa, solo il rumore dei loro passi ritmati e il suono ossessivo delle loro preghiere a picchiarci contro il petto. Dio è con noi, Dio è con noi, Dio è con noi. No, non posso star qui seduta ad aspettare la fine, a vedere morire così il pensiero. Io non ci riesco, non sono capace, io non posso. La Chiesa di Dio è costantemente minacciata da eresie, da dottrine immonde e sacrilege, da insensa Dio pieni di stoltezza, eccesso, smisurata ignoranza, insensatezza e depravazione. Queste persone sono altamente sacrileghe, sono calunniatrici e ingannatrici di diritto, sono minate dai fermenti della malvagità e gravemente affette da ignoranza di Dio. Il loro massimo grado di stupidità e la loro follia li porta a professare dottrine di origine diabolica. L'oltraggio che recano a Dio li farà precipitare nell'inferno, se non avranno già fatto in questa vita una brutta fine. Nessuno. Nessuno, no. Non c'è più nessuno. Io ho camminato sin qui con la speranza di avere ancora qualcuno con cui parlare. No, ma no, no, no, nemmeno insegnare. Ora a me basterebbe parlare. Ma gli miei amici più cari in questi giorni di terrore stanno sprangati in casa, come se la paura li potesse salvare. Per strada la gente ride della donna picchiata, della donna a cui urlano strega, e non sanno che poi toccherà agli uomini con pochi capelli, poi a quelli troppo grassi, poi a chi ha la pelle o troppo chiara o troppo scura. E poi toccherà a chi è diverso. Ci aspetta il regno dei folli. Quando gli uomini si credono Dio, torri che diventano campanili, templi che diventano cattedrali, questo è il regno dei folli. Bruceranno i libri, poi bruceranno le scuole, poi bruceranno le statue, poi bruceranno noi. Io lo so, e ho provato anche ad urlarlo, ma le mie grida mi sono tornate indietro come schiaffi di indifferenza. Io amo questo posto. Amo i libri che ci sono qui. Io in questo posto ci sono cresciuta. Ma non basteranno i ricordi a proteggermi. Avanti dunque con le ondate dirompenti di questi uomini. Avanti con i pettegolezzi e le chiacchiere senza senso, con parole abbellite da chimere e inganno. Oddio! Annienta con me gli eretici! Il primo raggio di sole mi sveglia, mi acceca. Devo coprirmi gli occhi con la mano, ma sento le lacrime. Lo stomaco mi brucia e le lacrime mi dicono di fermarmi ancora un poco. Il mio fisico è catturato nella sua vecchiaia. No, devo andarmene. Mi devo alzare da questa pietra. Prendo le briglie del cavallo e il sole mi indica la via. C'è una bell'aria e i libri sanno di polvere e di rugiada. I libri sanno di felicità. Non c'è nessun Dio che possa odiare questo odore. Vedo i gabbiani giocare con le onde del mare e sento il sale sulla pelle, e io avrei voglia di mettere i piedi sulla sabbia, ma il sentiero è troppo ripido per me. Ricordo mio padre, quando lo convincevo da bambina a venire qui. Ricordo quando, dopo essermi buttata in mare, giravo la testa fra le onde per vedere se lui era lì sulla spiaggia ad aspettarmi. E sì, lui era lì ad aspettarmi. Io ho voglia di un'altra alba, tutta per me. I libri sono in salvo e io vorrei pensarmi in pace per una volta, adesso. Se non si convertono, il Signore farà luccicare la sua spada contro di loro. Essi sono il culmine della malvagità. La loro gola è davvero una tomba spalancata. Le loro labbra celano veleno di vipera. Rinsavite, voi ebri! Dio è con noi! Lo so, sono loro. Loro vogliono che io diventi cristiana. Mi hanno offerto dei soldi per questo, sì, soldi per la mia scuola. Ma io non posso farmi comprare. Se mi faccio comprare, io non sarò più libera e non potrò più studiare. La religione, ma qualsiasi religione, qualsiasi dogma o ideologia, se non ti permette di pensare, diventa come una gabbia che ti soffoca. Chi siete? No, chi siete? Lasciate! No, andate via! Io giro tra i banchi vuoti, quante giornate passate qui con i miei allievi, non posso dovervi abbandonato anche loro. Ancora quei rumori, io ho paura di tutto. E' a questo che mi hanno portato. Io vedo ombre, teste incappucciate dove prima c'erano gli alberi del giardino. Sento passi furtivi dove prima c'era la corsa allegra dei miei allievi finite le ore di lezioni. Chi siete? Chi siete? Andate via, lo so! Non sono mani amiche quelle che bussano alla mia porta. Io vorrei urlare che non ho paura e dire che siamo in tanti qui dentro e che ci difenderemo. Ma io sono sola. E loro lo sanno. Chi siete? Chi siete? Andate via, no! Andate via, lasciatemi, no! Fiamme urla! Io piego la testa e mi rannicchio. Lingue di fuoco che mi inseguono. Paura, maledettamente paura, soltanto paura. Ma io non ho paura di Dio. Ho soltanto paura di loro, io vorrei ammettere tutte le colpe del mondo se servisse a qualcosa, sì, se servisse a fermare le mani e i pugni, botte, calci, sassate che mi tagliano la pelle. Il mio corpo si assottiglia, io sto diventando trasparente, ma io voglio continuare ad essere, forse basterebbe aprire gli occhi, ma io non ho più gli occhi, me li hanno strappati via. Fiamme urla! Le urla della loro sconfitta. Non ascoltate quello che vi diranno. Vogliono che io sparisca nel nulla. Per questo diranno che me ne sono andata, che sono fuggita. Per questo diranno che nessuno ha visto quello che mi hanno fatto e nessuno ha sentito. Non gli credete. Bruciano il mio corpo e i miei scritti perché non vogliono resti nulla di me. Ma si sbagliano. Il pensiero non brucia. Ricordatevelo. Io vi vedo. Amici miei, sono lì con voi che correte veloci aggrappati ai vostri cavalli. La notte ci porterà al mare, liberi, il vento nelle vele, una nave piena di libri, parole ai remi e numeri al timone e l'ordine delle nostre teste a darci la rotta. Un'altra alba ci aspetta. Troveremo un posto per ricominciare. E non voltatevi mai indietro a vedere il mio corpo che brucia. Il pensiero non brucia. Ricordatevelo. Io adesso voglio solo salire sul tetto della mia casa, come quando ero bambina, e guardare le stelle. Mio padre è lassù che mi aspetta, Lo so. Mio padre mi aspetta. Io lo so.